guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri. Come sapete, ci siamo già occupati esattamente un anno fa della questione amianto. Torniamo a farlo perché a Torino recentemente il procuratore vicario della procura, Raffaele Guariniello, ha chiesto rinvio a giudizio di Stefan Schmidaini e Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchen, un 87enne barone belga. Ebbene, Guariniello il 10 ottobre ha chiesto il rinvio a giudizio per queste due persone con l'accusa di disastro doloso e omissione volontaria di cautele antinfortunistiche. Quindi abbiamo questo dato, diciamo così, di cronaca e di attualità che ci spinge a occuparci nuovamente della vicenda amianto e dei rischi che corrono o che hanno corso le persone che hanno lavorato a contatto con la fibra di cemento amianto. Nei faldoni della Procura della Repubblica di Torino si parla di migliaia di vittime, circa 3.000, per tutte le persone ex operai che hanno lavorato non soltanto negli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e di Cavagnolo in Piemonte, ma anche di Bagnoli in Campania e Rubiera in Emilia-Romagna. Ebbene, questa è solo la prima puntata di un viaggio che ci occuperà per altre settimane, perché crediamo che valga la pena di approfondire questo discorso e scopriremo che non interessa soltanto il Piemonte, ma interessa un po' tutte le regioni italiane. Ma io do il buonasera e il benvenuto proprio al procuratore vicario della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello. Buonasera Guariniello. Buonasera. Allora, la prima domanda che le faccio è questa qui: quando ci sarà la prima udienza del processo? E questo adesso aspetterà al giudice dell'udienza preliminare fissare l'udienza nella quale si discuterà appunto sulla nostra richiesta di rinvio a giudizio. C'è da tenere presente che ci sono, come lei appunto ha detto, varie persone interessate che devono essere informate, quindi questo però sarà una decisione che prenderà il GUP. Ecco, veniamo all'ipotesi di disastro doloso e omissione volontaria di cautele infortunistiche. Su che cosa si basa, volgarmente, per far come dire, capire ai nostri radioascoltatori il suo lavoro, appunto su che cosa si basa la vostra ricostruzione dei fatti per giungere a queste due ipotesi di reato? Naturalmente questa è la contestazione, l'ipotesi che noi abbiamo ritenuto di dover formulare, spetterà quindi poi al giudice, dopo aver sentito noi, aver sentito la difesa, prendere una decisione al riguardo. Noi abbiamo ritenuto di arrivare a questa contestazione sulla base di molti elementi che sono negli oltre 200 faldoni che abbiamo raccolto in questi anni di testimonianze, documenti, consulenze tecniche, insomma di molteplici elementi che suppongo anche testimonianze scientifiche, mediche che avranno corroborato il vostro lavoro, certo. Scientifiche, eccetera, ma anche di uno dei problemi su cui credo che si discuterà appunto sarà quello di vedere quali fossero i soggetti che effettivamente prendevano le decisioni, perché in passato già ci sono stati alcuni procedimenti che hanno riguardato questo o quello stabilimento, però nei quali procedimenti l'accusa era mossa a amministratori italiani o comunque operanti in Italia. Qui certo, la scelta che è stata fatta dal nostro ufficio è quella di contestare questi reati quelli che il nostro ufficio ha ritenuto essere gli effettivi soggetti che prendevano le decisioni. Ecco, e a proposito di questo, come giudica la decisione di uno degli ultimi discendenti di questa famiglia svizzera, appunto Stefan Schmidaini, di indennizzare volontariamente i familiari delle vittime con questo gesto di liberalità, possiamo così dire, che ha recentemente reso noto attraverso il suo avvocato, che più tardi poi avremo in trasmissione? Ma vede, ogni decisione che vada nel senso di far avere alle vittime o alle loro famiglie un risarcimento, un indennizzo, è da prendere con molto favore, no? Tanto più se poi è una decisione che sarà di un risarcimento adeguato per tutte le persone che hanno diritto a questo risarcimento. Questo però non deve far dimenticare che poi il procedimento penale ha un altro obiettivo, che non è quello di ottenere il risarcimento del danno, che pure è una cosa molto importante, ma è quello di accertare le eventuali responsabilità penali. Quali difficoltà avete incontrato, se ne avete incontrate, a, come dire, avere una collaborazione propositiva da parte dei vertici della multinazionale? La questione del risarcimento è una questione di cui noi prendiamo atto, però è una questione che nasce e si sviluppa nella trattativa tra le parti. Tra le parti, certo. Quindi non è un nostro. Tanto più che lei deve anche considerare che qua sono coinvolte anche non soltanto gli ex lavoratori, ma anche persone che non hanno mai lavorato con l'amianto, ma persone che hanno magari vissuto nei pressi di uno stabilimento dove si lavorava l'amianto, no? Cioè, un danno ambientale quindi anche molto più ampio di quello che riguardava soltanto il lavoratore. Non è solo un problema dei lavoratori, ma è un problema, così come noi lo abbiamo contestato, è un problema che riguarda anche gli abitanti in una zona in cui c'era uno stabilimento, ovvero i familiari di lavoratori che hanno magari lavato gli indumenti del loro marito, e poi anche un'altra situazione, che è quella in cui magari dei residui di materiali di amianto venivano utilizzati per coibentare il sottotetto o nei cortili delle abitazioni, quindi una esposizione, quella che viene qui in considerazione, che non è solo quella lavorativa, ma anche quella ambientale. Esatto. O familiare. Ecco, quindi è in buona sostanza, come dire, un alone molto più ampio. È un dato che è molto importante tenere presente, al di là poi della situazione specifica oggetto del processo, che purtroppo noi di qui al 2030, gli esperti ci dicono che moriranno di mesotelioma, d'amianto, oltre 120.000 persone in 6 paesi dell'Europa. E tra questi ci sono molti lavoratori, ma anche molti non lavoratori. E purtroppo questo è un dato triste ed è uno dei motivi che ci ha spinto a ritornare su questo tema, ragione per la quale io innanzitutto ringrazio per il suo intervento il procuratore vicario della Procura di Torino, Raffaele Guariniello, che sta conducendo le inchieste proprio sul amianto. Grazie ancora, Guariniello. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo. Stiamo affrontando la prima tappa di un viaggio nell'amianto e nei rischi che i lavoratori corrono, o meglio, han corso nel momento in cui sono entrati a contatto con queste sostanze, la fibra di amianto, il cemento amianto. Il magnate svizzero Stefan Schmidaini ha proposto di indennizzare le vittime e i loro familiari con appunto una cifra di cui fra breve parleremo con l'avvocato di Schmidaini, il legale italiano Astolfo Di Amato, e lo facciamo anche perché a breve ci sarà, come dire, il processo che vedrà coinvolte alcune di queste imprese chiamate in causa. Dicevo prima di Schmidaini, che come sappiamo è il discendente di una facoltosa famiglia svizzera che insieme ad un altro magnate ricchissimo belga per anni è stato ed è al capo della multinazionale Eternit. Ho il piacere di dare il benvenuto e il buonasera al legale italiano di Schmidaini, Astolfo Di Amato. Buonasera Di Amato. Buonasera e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Allora, io vorrei partire da questa domanda. Perché questa proposta di indennizzo ai familiari? Un gesto di solidarietà, mi pare abbia dichiarato il suo assistito, un tentativo di sviare le fasi processuali, replicano gli avvocati dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Prego, Di Amato. Stefan Schmidaini ha assunto delle responsabilità nel gruppo svizzero nel 76 e nell'84 le società sono state dichiarate fallite. Ebbene, dal 76 all'84 non un centesimo è partito dalle società italiane per andare in Svizzera e viceversa. Dalla Svizzera sono stati investiti per le misure di sicurezza e per cambiare i sistemi di produzione in modo più sicuro 55 miliardi di lire, che all'epoca era una cifra enorme. Quindi non stiamo parlando di una persona che ha lucrato dei profitti e che si deve pulire la coscienza, ma stiamo parlando di una persona che già a 28 anni, quando assunse le responsabilità, preferì privilegiare la tutela della salute piuttosto che i profitti. Ora, Schmidaini ha una storia di sensibilità ai problemi sociali, allo sviluppo sostenibile, e tra l'altro questo dato che le ho citato è evidente, ma ve ne sono mille altri. In questa prospettiva, in questa filosofia, ha fatto una proposta di indennizzo che vuole essere un motto per stare vicino a coloro che soffrono per le conseguenze dell'uso dell'amianto. Ecco, però questa proposta di indennizzo mi pare che sia unilaterale e soprattutto contraddica un accordo quasi raggiunto circa un anno e mezzo fa, in cui si parlava di, se non ricordo male, 75-76 milioni di euro. Come mai questo cambio di rotta? Dunque, l'accordo non fu raggiunto perché all'ultimo minuto vi furono delle divergenze, e quindi è inutile andare a cercare di chi è la colpa del mancato accordo all'ultimo minuto. Quello che posso dire è questo, che questa offerta non contraddice affatto l'iniziativa che vi fu a quell'epoca, e la differenza è che, non trattandosi di un accordo, è un'offerta fatta a ciascuno e ciascuno potrà aderire secondo le sue valutazioni. E questo è molto importante, quello che lei sottolinea, vale a dire è un'offerta al singolo e non un'offerta di massa, un blocco. Esatto. Voler pensar male, però, si potrebbe anche credere che questa mossa arriva, guarda caso, quando il processo sta per cominciare, quindi è un modo anche per evitare il processo, o sbaglio? Guardi, il processo non verrà evitato perché è già stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Quindi se fosse arrivata l'offerta prima della richiesta di rinvio a giudizio, ci potrebbe essere un'idea quale quella che lei sta introducendo. La circostanza che l'offerta e dopo significa che non interferisce con il procedimento. Non interferisce, però aderire vuol dire non essere più chiamati a deporre in un processo, comunque la causa verrebbe... Ecco, prego, si esprima pure. Perché, aderire significa non costituirsi parte civile, ma non significa affatto non essere chiamati in causa per responsabilità penali, insomma. Esatto. Certamente. Esatto. Ecco, veniamo alla responsabilità. Lei ha detto dal 76 all'84 è stato chiamato Stefan Schmidheiny a ricoprire dei ruoli di responsabilità nella multinazionale, ha investito e non ha ricevuto nulla in cambio. È così sicuro, voglio dire, che l'impresa che lei rappresenta non conosce i rischi, diciamo così, delle sostanze che venivano manipolate dai lavoratori? Guardi, il tema dell'amianto è un tema terribile ed è una tragedia che si sta sviluppando e di cui forse non abbiamo ancora visto il momento peggiore. Perché? Che l'amianto comportasse dei rischi e quindi dovesse essere lavorato con cautela, si sapeva, ed è per questo che sono stati fatti questi significativi investimenti. Quello che non si sapeva, e si è saputo molto dopo, è che anche una singola fibra di amianto può avere degli effetti letali. Tant'è vero che la proibizione dell'uso dell'amianto data il 1991, quindi vi è stata una successione di conoscenze e solo nel 91, e quindi immediatamente prima, si è preso atto della impossibilità di un uso controllato dell'amianto. Ecco, prego. In precedenza anche lo scienziato che si porta a testimonianza della antica conoscenza dei rischi dell'amianto, e cioè Sedikov, che ne parlò nel 75 a New York. Anche Sedikov nelle dichiarazioni di fine anni 70 diceva: questo non significa che dobbiamo dismettere l'amianto, ma avere cautela nell'usarlo. Ecco, per correttezza bisogna dire ai nostri radioascoltatori, ma questo l'avvocato lo sa molto meglio di noi, che in maniera contraria la pensa il PM Raffaele Guariniello, che invece ha rinviato a giudizio il 10 ottobre Schmidheiny e Ghislain de Cartier de Marquien, o come si pronuncerà questo cognome, è lunghissimo, questo 87enne barone belga, con l'accusa di disastro doloso e omissione volontarie di cautele antinfortunistiche. Quindi, come dire, le visioni sono nettamente opposte. Il suo assistito come mai non ama apparire e delega sempre? Vuoi lei come avvocato e comunque si tiene fuori da questa storia? Ma guardi, è un protagonista della vicenda, suo malgrado, e ovviamente rispetto alla giustizia penale si assoggetta, tuttavia ha una sofferenza nella pendenza di questo procedimento, è qualcosa che lo tocca molto profondamente e quindi è comprensibile che non ami essere protagonista pubblico di dichiarazioni e di dibattiti sul tema. Ecco, sapendo che uno degli uomini più ricchi al mondo, non lo dico certamente io, ma è la classifica di Forbes a dirlo, come vive oggi il suo assistito? È vero che si dedica molto alla filantropia oppure un'azione indotta dal fatto che qualche peso sulla coscienza dovrà pur sentirlo? Guardi, dire che sente dei pesi sulla coscienza significa dare un giudizio giuridico o morale, e io sarei attento a questo. Io francamente non... La mia è una domanda, non è una considerazione personale. Quello che concerne la sua attenzione agli aspetti della filantropia, per la verità, è fin dall'inizio degli anni 90, come è documentalmente provato, che si occupa di sviluppo ecosostenibile e di assistenza ai popoli in via di sviluppo. Quindi benissimo. Non ha niente a che vedere con la vicenda, esatto, con la vicenda penale che lo vede protagonista. Io ringrazio davvero l'avvocato Astolfo Di Amato per aver partecipato alla prima puntata del nostro viaggio nel rischio amianto. Dico grazie in regia a Peter Bescapè, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di Guardie o Ladri.